E siamo con l'anima di Agosto con noi, con la mitica Umberta Conti, direttrice artistica e ideatrice di questa cosa ormai epocale che da tanti anni si svolge a Ozzano in un arco di 2 settimane e aiuta le ricerche dell'Istituto Ramazzini. Sì, sono dall'87 che io sono stata chiamata dal grande professor Cesare Maltoni, di cui ho iniziato con Artisti di Strada. Sono tanti anni ed ora sono arrivata a un livello nazionale e internazionale, veramente. E sono orgogliosa perché gli artisti partecipano gratuitamente. Abbiamo la clinica di Ozzano, grazie a loro, il poliambulatorio a Bologna per la ricerca e la prevenzione, che è molto importante. Sì, quindi sottolineiamo che sono stati raggiunti e conseguiti risultati concreti, effettivi durante il percorso. Sì, quindi sono 14 giorni, dal 3 al 16 di agosto, e quindi i giorni sono tanti, con un caldo. Poi grazie anche a tutti i volontari, perché loro veramente sono in cucina, c'è tanto da fare con il caldo, quindi è veramente una cosa molto molto bella e credo che sia la festa più grande dell'Emilia Romagna, davvero. Certo, infatti vedo che nel cast ormai da parecchi anni ci sono anche artisti veramente di nome, di fama nazionale, che non lesinano la loro presenza perché conoscono la nobiltà dell'obiettivo e sottolineo la concretezza di arrivare a qualcosa e lasciare qualcosa per la nostra comunità. Certo, certo. Cosa dire, io ringrazio anche voi della stampa, voi tutti che ci date una mano e io sono molto contenta e orgogliosa di fare, diciamo, questa opera che per me è un'opera di solidarietà. Benissimo, grazie mille Umberta, ci vediamo a Ozzano allora. Grazie mille.